prigioniera, avorio dei suoi seni e i suoi versi, addì di libertà. Sembra che poi io e il suo vestito rosso aurora abbia poi ballato come sa fare lei. Ritmo di un ventaglio, io. Ritmo di un ventaglio, io. Viaggiatrice io, aveva forza di gioia sulla sua chioma e non si sa ancora di quanto la sua frontiera le spostò. E si dice che qualcuno dopo aver incontrato io possa poi ballare come sa fare lei. Ritmo di un ventaglio io. Ritmo di un ventaglio io. Non ci fu più tempo più. Thank you.